24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:31 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta fino alle 9. Buona giornata e ben ritrovati. E allora, nel nostro sondaggio di oggi, di che parliamo? Di mondo universitario, perché il rettore della Sapienza, Frati, ieri ha tuonato, lo abbiamo sentito, ne parlavamo in rassegna stampa, anche contro i ricercatori. Chi fa ricerca nell'università? A tutto tondo. E dice alla Sapienza: il 10% di chi fa ricerca non fa nulla in realtà, ruba lo stipendio e andrebbe cacciato dall'università. Altro che parlare di riforma e di tagli. E allora vi chiediamo, che ne pensate? Secondo voi ce la farà a cacciarlo dall'università? Questo dice Frati. Ne parleremo alle 8:30, sarà nostro ospite, tra gli altri, proprio il rettore della Sapienza. E intanto votate su radio24.it, bianco, nero, nella homepage ci trovate, come sapete. E ora andiamo a scoprire invece cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. In questo mercoledì 7 luglio la scelta è quasi unanime dei grandi quotidiani di aprire sul tema manovra e scontro governo centrale regioni. Tagli confermati per le regioni, vicina la rottura, così apre il Sole 24 Ore, ma vedendo la carrellata di titoli sono abbastanza simili sul tema. Corriere della Sera, frattura regioni-governo, La Repubblica, manovra, rottura governo-regioni, La Stampa, manovra, il no delle regioni. E poi c'è Berlusconi, mai correnti nel PDL, Il Messaggero, regioni, maxi tagli ma flessibili. Per Libero, il piangi e fotti delle regioni. Occhio ai governatori, si lamentano dei tagli, ma da 5 anni continuano ad aumentare le spese. Ecco, questi alcuni dei titoli, li ho accumulati, quelli che parlano dello stesso tema. Vedremo poi anche qualche altra apertura nel corso della rassegna stampa. Come di consueto, come detto, il tema è quello della manovra, che domani approda al Senato la discussione, probabilmente la blindatura con la fiducia. Ieri non c'è stato quell'incontro tra regioni e Berlusconi che le regioni chiedono. Le regioni, così è crisi istituzionale. Leggo a pagina 3 del Sole 24 Ore. Sono stati confermati sostanzialmente i tagli del 8,5 miliardi in 2 anni. E allora troverete un po' ovunque interviste a governatori che si lamentano. Per esempio, il Sole intervista Vasco Errani, che è anche il presidente della Conferenza delle Regioni, e che dice: Berlusconi ci incontri, è da giorni che vogliamo un faccia a faccia con lui, Berlusconi può evitare la rottura. E c'è anche un'intervista nella stessa pagina a Renata Polverini, dunque presidente della Regione Lazio, che dice: al momento il governo ci nega l'incontro, sembra così, ma oggi saremo, lei dice domani, cioè oggi saremo tutti a Roma per la conferenza delle regioni, e siamo lì, vediamo se possiamo vederci. La manovra sarà davvero durissima, sarà molto pesante, conferma Renata Polverini. Noi per esempio abbiamo già fatto dei calcoli, il taglio sul trasporto pubblico locale sarà di circa 400 milioni, cioè, conferma, dovremo tagliare i servizi. E poi il governo dovrebbe frenare almeno le super addizionali, già oggi il nostro piano produce più di 200 milioni di risparmio, credo che da parte del governo un piccolo ripensamento sulle addizionali sarebbe stato possibile. E Renata Polverini conferma in questa intervista concessa a Roberto Turno: ho il dovere di attivare gli avvocati della regione, dunque attiverò gli avvocati della regione, perché sono l'espressione di un'istituzione che deve cautelarsi da questo punto di vista. Sul Corriere della Sera invece il capofila della protesta, quello della famosa frase del padre sciamannato che sarebbe lo Stato, vale a dire Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, ecco, sul Corriere a pagina 3 concede un'intervista a Maurizio Giannattasio: il premier ci ascolti, da tutti l'appello è questo, il premier ci incontri, così è premiato chi spreca di più, continuiamo a chiedere il dialogo istituzionale. C'è certo la conferenza Stato-Regioni, ma è un incontro di routine. A quel punto hanno messo al 42esimo punto dell'ordine del giorno il tema della manovra. Per carità, è importante quel consesso, ma noi vogliamo vedere Berlusconi. Tanto che questo pressing, vogliamo vedere Berlusconi, vogliamo vedere Berlusconi, vuol dire che c'è qualcosa di retroscena dietro. E come al solito abbastanza illuminante, Francesco Verderami sul Corriere della Sera spiega il perché i governatori delle regioni vogliono vedere personalmente Berlusconi. Ecco qui, il retroscena, la tentazione del cavaliere tra i governatori offesi e le mosse del superministro. Il superministro è Tremonti. È l'ultima tentazione, la più forte, la mossa con la quale davvero Berlusconi cambierebbe il volto alla manovra. Perciò i governatori premono per vederlo, oggi, prima del voto di fiducia al Senato. È da ieri mattina che tempestano di telefonate Gianni Letta e ora, aggiungo io, fanno appelli pubblici in interviste. Cioè Berlusconi ci veda. Ma se il cavaliere accogliesse la loro richiesta, basterebbe una parola, una sola parola fuori posto e a quel punto sarebbe Tremonti a rivoltarsi. Perché il ministro dell'economia l'ha anticipato al premier, dopo avergli detto che se riducessi i tagli alle regioni dovresti poi tagliare ancora di più sui ministeri. Scegli. È come scegliersi il girone infernale, scrive Francesco Verderami. Dunque Berlusconi sarebbe tentato, da parte il pressing di tutti i governatori, ci veda. Il timore però è che se in quell'incontro dovesse poi dire una parola fuori posto che non garbasse a Tremonti, allora si troverebbe risolto, tra virgolette, un problema, a creare immediatamente un altro problema. Dall'altra parte il governatore Fitto, scusate, il ministro Fitto, è stato governatore anche lui in Puglia, il ministro Fitto con i rapporti con le regioni dice: i governatori si rassegnino, taglino i rami secchi, facciano per esempio come ha fatto la Toscana, che ha annunciato chiudiamo 7 uffici in giro per il mondo. Ecco perché i saldi rimangono quelli, 8,5 miliardi di euro, non sono i saldi di quelli che andate a comprare gli abbigliamenti, cari ascoltatori, sono i tagli che devono fare le regioni nei prossimi 2 anni. Mentre il giornale continua in quella campagna dell'andare a cercare gli sprechi, oggi ci si concentra sulla regione Lazio all'epoca di Marrazzo, dove le regioni hanno buttato soldi, secondo il giornale. Così Marrazzo ha buttato 5 milioni di euro per film mai visti. Alcuni visti, come Colpo d'occhio di Sergio Rubini, 600.000 euro, oppure Milano-Palermo il ritorno, sempre 600.000 euro, 500.000 euro per Abemus Papam di Nanni Moretti, 300.000 euro a Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, tragicommedia ambientata nella Roma multietnica dell'Esquilino. Ci sono anche alcuni fondi, secondo il giornale, come 300.000 euro per La polvere del tempo o 200.000 euro per La voce di film, che non sono neanche stati distribuiti. Per il giornale, a pagina 4, ecco un esempio di dove le regioni hanno buttato via dei soldi. Vabbè, questo è lo scontro regioni-governo. Sapete che questa però è la settimana del Gepensimi. Allora, il Gepensimi di Berlusconi, che ha prima risolto il caso Brancher, invitando il ministro, ex ministro, a dimettersi. Ora c'è la questione con le regioni. Che farà? Gepensimi li convocherà? Non li convocherà? I governatori? Staremo a vedere, credo, oggi. Sarà una giornata importante. Poi il Gepensimi è sull'altra questione che è sotto traccia, davvero brucia, incandescente, il rapporto con Fini. Ultima chiamata al cofondatore, così il Corriere a pagina 7, il malumore, ma per usare un eufemismo, del cavaliere con le correnti del PDL, basta le correnti. Ieri Berlusconi ha riunito i suoi fedelissimi, tra questi anche Gaetano Quagliariello, vice capogruppo al Senato del PDL, che in un'intervista Libero è alquanto esplicito. Sentite cosa dice. Separazione consensuale con Fini? No, il divorzio è inevitabile. C'è una differenza tra i due che si approfondisce sempre più sui principi, sulla concezione del partito. Tutto questo ha come sbocco obbligatorio il divorzio. Non c'è più margine di trattativa, chiede Libero. Non credo che l'accordo possa arrivare attraverso una burocratica trattativa. È diabolico pensare che i due si seggano a un tavolo e stilino un freddo contratto di separazione, quasi fosse l'accordo tra Jacqueline e Onassis. Questa vicenda ha una sua carica drammatica. Tenete conto che Quagliariello è una delle persone che ieri ha visto Berlusconi in questa riunione molto ristretta, c'era anche Alfano, anche Cicchitto, credo, anche Bonaiuti, insomma, i Bondi, considerati i fedelissimi di Berlusconi. E poi Quagliariello dice, in questa intervista a Libero, non c'è più margine di trattativa, cioè il divorzio è inevitabile. È abbastanza esplicito. Pensate, secondo Fabio Martini sulla Stampa, anche Gianni Letta, colui che è il mediatore con la M maiuscola, forse con tutte le lettere maiuscole, dalla M di mediatore alla E, dalla prima all'ultima, pare che anche Gianni Letta si sia arreso. Questa frase che Fabio Martini dice Gianni Letta avrebbe detto incontrando Gianfranco Fini a Montecitorio: caro presidente, credo di poter proprio dire di aver esaurito ogni margine di mediazione tra te e Silvio, o vi incontrate direttamente e provate a capirvi oppure non ci sono più margini, confermando la sensazione che insomma questo rapporto andrà a esaurirsi. Adesso bisogna capire come scriveva ieri Folli, cioè se in maniera traumatica, un divorzio durissimo, e questo potrebbe anche creare problemi poi sulla tenuta del governo, se una separazione più consensuale, insomma due vie che si allontanano lentamente, in questo caso sarebbe un procedimento magari un po' più lungo. Ferve molto anche qualche novità nell'ambito Lega. Ecco, non trovavo più l'articolo, ma l'ho trovato. Perché l'affare Brancher, insomma, il fatto che Brancher era considerato un pontiere molto vicino alla Lega, i malumori, si parlava di possibile successione, discussione tra i maggiorenti della Lega, i maggiori esponenti, anche di litigi tra Calderoli e Maroni, per esempio sulla possibile successione a Bossi. Vabbè, poi tutto è stato messo a tacere, ma insomma c'è qualcosa che anche i giornali colgono, di qualcosa che sta succedendo all'interno della Lega. Per esempio, un'intervista interessante a Calderoli sul Corriere la fa Marco Cremonesi. Abbiamo dopo la trota, cioè il trota, o meglio Renzo Bossi, il figlio di Bossi, abbiamo il nuovo appellativo, e se lo dà lo stesso Calderoli, il tonno. Calderoli ha detto: ma che delfino io al massimo sono il tonno, da oggi avremo, dopo il trota Renzo Bossi, il tonno nella Lega, Roberto Calderoli. Andrò in pensione con Bossi. Prima parla di Brancher, all'inizio l'idea era di fare un ministro dell'agricoltura, poi si è sbagliato sulla delega, doveva essere al decentramento, hanno messo federalismo, mettere una parola che è la ragione sociale della Lega, ha cambiato tutto, insomma è stato un pasticcione, dice Calderoli. E poi sulla successione: ma che la Lega ha una sola voce, è quella di Bossi, lo sanno anche i Sassi, c'è chi ha parlato di una lotta di successione tra me e Maroni, ecco qui, allora voglio dirlo, dopo Bossi la persona che conosco che più capisce di politica è proprio Maroni, ne capisce molto, ma molto più di me. Io faccio politica perché mi piace, ma vado in pensione con Bossi, non so se fare il ristoratore o per andare a pesca, i delfini sono altri, io sono un tonno. Eccolo qua Roberto Calderoli. Ma ce n'è anche per il trota, cioè Renzo Bossi. Secondo Libero, la trota va di traverso alla Lega. Che cosa si starebbe discutendo? Mettere a capo dei giovani padani il trota Renzo Bossi. Attualmente c'è Paolo Grimoldi, 35 anni, deputato, si è discusso all'interno della Lega, forse 35 anni sono troppi, non si è più giovane a 35 anni, bisognerebbe mettere un limite a 29 anni, guarda caso si sta pensando che la persona più azzeccata per fare il capo dei giovani padani potrebbe essere il trota Renzo Bossi, tanto che Mario Giordano su Libero firma un editoriale abbastanza secco a dire: anche Bossi tiene famiglia. Ecco, subito messo il figlio, potrebbe essere messo il figlio a capo dei giovani padani. Chi lo sa, la trota va di traverso alla Lega, che poi lui si fa chiamare il trota. Sta di fatto che, per concludere con la Lega, questa non è una barzelletta, anche se Iena, pagina 3 della Stampa, lo dice così: non è una barzelletta, ma potete anche ridere. Ieri a Milano un dirigente della Lega è stato derubato in un campo nomadi. Io credo che sia, cioè è sicuramente Igor Iezzi, che ieri credo di aver anche sentito intercettato dalla Zanzara con Giuseppe Cruciani. Il Quotidiano Nazionale ne fa un articolo: qual è il colmo per un leghista? Essere derubato dai Rom. E infatti è successo a Igor Iezzi, segretario milanese del Carroccio. Ieri alle 11.30 era lì con una giornalista di Milano 2015, un campo Rom. dei rom sono arrivati dicendo: guardate che ci sono i vigili attorno alla vostra macchina, vi stanno facendo la multa. Altro che multa, è andato lì, c'era il vetro rotto e due cellulari erano spariti. Poi pare che li abbia recuperati i Gorietzi, insomma, leghista il campo rom, gli rubano i telefonini. Come dice Iena, non è una barzelletta, ma potete anche ridere. In primo piano, la ricerca di una soluzione umanitaria, Frattini e Maroni, è il testo di una lettera comparsa oggi, che compare sul Foglio, che tratta quel tema che abbiamo affrontato ieri in rassegna, dicendo guardate che è una vicenda che stanno seguendo da alcuni giorni, è partita l'Unità e poi altri giornali si sono accodati a questa vicenda. E cioè di questi eritrei che sono alcuni probabilmente sono stati respinti dall'Italia e che si ritrovano ora in un carcere, insomma centro di detenzione, che loro dicono lager, nel sud della Libia. L'appello: si faccia qualcosa, perché secondo loro avevano diritto all'asilo politico come rifugiati eritrei in Italia, mentre sarebbero stati vittima di uno di quei atti di respingimento da parte del nostro governo. E allora Frattini e Maroni scrivono, prendono carta e penna, scrivono al Foglio dicendo: stiamo utilizzando tutte le armi che non sono quelle della pubblicità. Anche perché, scrivono Frattini e Maroni, di questa vicenda le cronache, le interviste giornalistiche, appelli via telefono satellitare inspiegabilmente utilizzati da parte di persone che denunciano di essere detenute a rischio di tortura. Noi invece lavoriamo in silenzio, nel rispetto della sovranità libica, cercando di coinvolgere l'ONU per fare una delicata mediazione, per arrivare a dare un'occupazione, un lavoro nella stessa Libia a queste persone, con l'aiuto anche delle ONG italiane. Tanto che Giuliano Ferrara risponde grazie, insomma, per questa risposta, che non ha ipocrisie o ammiccamenti. Certo, l'unica cosa, dice Ferrara, a mio giudizio, il lavoro in Libia bene, ma anche asilo politica in Italia, se necessario, forse è il caso di darlo a queste persone. Il Manifesto ci ritorna oggi, sempre con Stefano Liberti, e l'apertura di prima pagina del Manifesto, la cui prima pagina adesso qui sfugge, il Manifesto sfugge, eccolo qua: la nostra Africa, questo è il titolo, con il volto di due, molto segnato, di due donne africane. E il Manifesto dice: eccola qui la lista dei profughi eritrei, l'abbiamo recuperata, scrive Stefano Liberti, sono 205 richiedenti asilo prigionieri nel carcere libico di Brac. Un elenco che non deve finire però nelle mani del regime di Asmara, altrimenti in Eritrea fanno scomparire i nostri familiari. Sono 205, tutti uomini, vogliono semplicemente chi ha diritto a avere asilo. 11 di loro sono stati respinti con un'operazione militare il 1 luglio del 2009 dalla Marina Militare Italiana. Staremo a vedere. Un'altra notizia che arriva dall'estero a me sconvolge, la trovate su tutti i giornali, è ben sviluppata sul Corriere della Sera, pagina 19, il dossier segreto su Dutroux nell'arcivescovado del Belgio. Marc Dutroux chi è? In Belgio è il simbolo dell'orrore della pedofilia omicida, colui che ha ucciso diversi bambini sta scontando l'ergastolo. Che è successo però? Che nelle varie perquisizioni ci sono state in Belgio, nell'arcivescovado di Malines, con tante polemiche anche nei giorni scorsi, le ricorderete, è stato trovato in cantina dell'arcivescovado, appunto a Malines, centinaia di pagine che dovevano essere negli archivi giudiziari, non dovevano essere se non in tribunale, con anche foto strazianti di Julie e Melissa, le due delle quattro vittime del mostro di Marcinella, anche ritratte all'obitorio, cioè immagini che non dovevano essere lì, nella curia di Malines, nell'arcivescovado di Malines, dovevano essere solo nelle stanze dei tribunali. Perché erano lì? Lo stesso portavoce della curia, in un'intervista al Corriere, il portavoce Rick de Beauclair, dice: siamo sbalorditi, non sappiamo perché quelle carte erano lì, ora vi chiediamo di non trarre giudizi, chi lo sa, forse qualcuno ce le ha spedite, noi le abbiamo messe lì senza neanche visionarle. Sta di fatto che quelle foto terribili erano lì. Il dossier segreto su Dutroux nell'arcivescovado del Belgio, davvero questo è un gran mistero. Io faccio solo un accenno, ma trovate molto sulla vicenda di Frati, il rettore della Sapienza, che ha detto: caccerò i ricercatori, e ce ne sono, il 10% della sapienza, che non fanno nulla, il nostro Oscar Giannino si è anche prodotto in un editoriale bellissimo sul Messaggero, che vi invito a leggere, riguarda questo tema. Noi ne parliamo nel nostro sondaggio alle 8.30, perché voglio andare all'ultime citazioni in rapidità. La prima è questa, dal Giornale, solo sul Giornale. Che ha fatto Michele Santoro, oltre a dire che tornerà con Anno Zero? Tornerà con Anno Zero, ma la notizia secondo il Giornale è un'altra. Santoro perde la causa, voleva far chiudere un giornale romagnolo. Il Giornale è la voce di Romagna, che se l'era presa dopo una puntata di Anno Zero sui presunti evasori fiscali di San Marino, dicendo: ah sì? Allora vi diciamo che Santoro, se tutti da noi sono furbetti dell'evasione fiscale, anche Santoro è uno di noi. Perché? Perché la sua consorte, Sania Podgajanski, è figlia della seconda moglie di Iliano Annibali, famoso imprenditore della zona, proprietario di uno yacht in una lussuosa villa a Covignano, con ottimi rapporti con San Marino. Santoro si è molto incazzato per questa provocazione, ha fatto causa e ha chiesto, udite udite, 6 milioni e 200 mila euro di danni alla voce della Romagna. Una cosa che, ci fosse stata una condanna, sarebbe arrivata, credo, la chiusura di questo giornale, fallimento. E invece la causa l'ha vinta la voce di Romagna. Secondo il giudice, questo articolo non ha travalicato il diritto di cronaca, bla bla bla bla bla bla, le solite cose. Insomma, Santoro ha perso questa causa, ora dovrà pagare anche i danni. Santoro perde la causa, voleva far chiudere un giornale romagnolo. Mi fermo qui perché non c'è altro tempo, ma ci sono altri tanti interessanti articoli sui giornali. Compratene qualcuno anche oggi, come al solito, questo è un invito. Le 8:17 minuti, ce la faccio, ce la faccio. Debora, vuoi aiutarmi? No, zitta, c'è la sigla, Debora Rosciani. Soldi e dintorni. Con quei rantoli di voce. Cosa che posso aiutarti a farti? Porti il colluttorio per fare gargarismi. Ho sentito il mio amico Dario Ricci in onda. Che stava un po' peggio di te. Siamo tutti vicino a te. Esatto, vicino ma a te, penseranno da fuori, ma non hanno voce, altri a sostituirli, non lo so. Ha finito con la firma e ha raccattato. Siamo qua irriducibili con la febbre a 40, aggrappati al nostro microfono fino a lui. No, la febbre no. Devo dire che io godo di ottima salute, per cui ti prego di. Benissimo. Ecco, e pertanto parlerò del passaporto biometrico, mio benissimo, caro, stamattina. Allora, ci sono delle novità, il passaporto cambia formato adattandosi alle indicazioni dell'Unione Europea e alla tecnologia del passaporto biometrico, per l'appunto nell'ottica di un processo di sicurezza digitalizzata, un documento, ne abbiamo già parlato qualche tempo fa, che per identificarci con più sicurezza conterrà anche le nostre impronte digitali, per cui chi sta organizzando una vacanza al di fuori dell'Unione Europea e si è accorto questa mattina che non ha il passaporto pronto, che lo deve fare da ex novo oppure deve rinnovarlo, attenzione, perché deve adattarsi appunto a queste novità di cui parliamo con la dottoressa Milena D'Arienzo, primo dirigente della Polizia di Stato, ormai affezionatissima ospite di Soldi e Dintorni su questi temi. Dottoressa, buongiorno e bentornata. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, l'Italia aveva avuto una proroga dall'Unione Europea per uniformarsi ed introdurre tutte le novità previste dal regolamento che prevede questa nuova tecnologia per il passaporto, e avevamo già spiegato in una puntata precedente che erano partite solo alcune città. Adesso mi sembra che dal 29 giugno siamo davvero pronti su tutto il territorio nazionale, dottoressa. Sì, è vero, tutte quante le questure dal 29 giugno 2010 emettono il nuovo passaporto biometrico, un nuovo libretto di passaporto a 48 pagine con il microchip che contiene i nostri dati anagrafici, la nostra fotografia e due delle impronte digitali delle nostre mani, solitamente l'indice della mano destra e l'indice della mano sinistra. Perché, dottoressa, questo strumento è una tutela rafforzata per il cittadino? È molto importante perché innanzitutto ha delle caratteristiche specifiche di sicurezza che non sono soltanto quelle del microchip, ma anche quelle per esempio della pellicola che ricopre la pagina con i nostri dati anagrafici contro le falsificazioni, e poi perché quando l'Unione Europea attiverà il sistema di controllo alle frontiere europee noi avremo la possibilità di essere identificati senza troppi controlli e troppe lungaggini proprio per l'esistenza di tutti questi dati già sul nostro passaporto. Ecco, naturalmente nulla cambia, almeno per il momento, perché il vecchio passaporto può portarlo a naturale scadenza. No, naturalmente, ricordiamo che tutti i passaporti che sono ancora in corso di validità rimangono tali, mentre un passaporto di nuova generazione che è valido 10 anni non può essere rinnovato, cioè al termine dei 10 anni deve essere completamente rifatto. Certo, quindi riprendere le impronte digitali, perché naturalmente poi anche, come dire, la nostra mano sarà cambiata, nel frattempo purtroppo si sarà invecchiata, per cui magari qualche cosina sarà cambiata, e questo è il motivo per cui va rinnovato interamente al 10° anno la scadenza, dottoressa? No, prima il passaporto era, e le nostre impronte purtroppo una volta che siamo cresciuti e diventati adulti sono immutabili, quindi insomma anche se la pelle si deteriora, se la grinzisce non cambia niente. È almeno una cosa che non invecchia, però per quanto riguarda invece il fatto dei 10 anni, si è voluto garantire che ci fosse un largo lasso di tempo di validità, non ci fossero continui rinnovi come era prima, perché il passaporto era valido solo 5 anni, soltanto per i minori il passaporto ha una validità minore, perché chiaramente invece il bambino, le caratteristiche somatiche cambiano, lì non abbiamo l'impronta digitale fino a 12 anni e quindi chiaramente ogni 3 anni o 5 anni a seconda della fascia di età il minore deve rifare il passaporto. A proposito di minori, poi ci sono anche delle cose che dobbiamo ricordare magari a qualche genitore in partenza, adesso ci arriviamo per gradi, dottoressa D'Arienzo, però intanto, considerando la necessità di prendere le impronte, la procedura per il rilascio dei nuovi passaporti sarà un po' più complessa, più lunga rispetto ai tempi che già conoscevamo? No, non è più lunga, nel senso che abbiamo queste alternative. Noi possiamo presentare la domanda per richiedere il passaporto sia in questura che tutti i commissariati distaccati, che dai carabinieri, che ai comuni. Soltanto che per prendere l'impronta digitale noi dobbiamo per forza andare in polizia, cioè sia in questura che ai commissariati distaccati. E lì otteniamo, automaticamente presentiamo la domanda, prendiamo l'impronta, rilasciamo la nostra firma digitalizzata e dopo 15 giorni riceviamo il passaporto. Mi ricordo nell'altra circostanza in cui avevamo organizzato una puntata su questo argomento, forse era in marzo, e c'era arrivata una segnalazione da parte di un ascoltatore che ci diceva: ma se qualcuno ha qualche problema alle mani? E io così mi ero un po' stupita di questa domanda, perché mi ero detta: ma senti un po' che curiosità che hanno gli ascoltatori. E poi l'avevo raccontato, si ricorda, a lei, dottoressa D'Arienzo, e lei mi aveva detto: è una perplessità per nulla invece irrilevante, perché... Sì. È vero, noi abbiamo previsto due soluzioni. Chi ha purtroppo una situazione per cui è impossibile per tutta la vita acquisire le impronte digitali riceve un passaporto elettronico come quello normale, dove però non sono inserite le impronte naturalmente, c'è scritto che il cittadino è esente per ovvi motivi. Invece, qualora la impossibilità di prendere le impronte sia soltanto temporanea, è stato introdotto un passaporto temporaneo che ha un costo di soli 5 euro e che riguarda per esempio le fattispecie in cui io abbia le mani ingessate, purtroppo per quei 40 giorni non possa prendere le impronte ma debba invece viaggiare. In questo caso di necessità e di urgenza ovviamente viene rilasciato questo passaporto temporaneo, che non è un passaporto elettronico. Allora, questo passaporto temporaneo, lei ci ha detto, costa 5 euro, per quello che riguarda invece quello tradizionale con le caratteristiche biometriche il costo rispetto a quello tradizionale è lo stesso? No, il costo è diminuito. Siamo passati a 42,50 euro, quindi meno rispetto a quello che costava il precedente. Benissimo. Allora, dicevamo prima i bambini, l'estate è anche soprattutto il momento dei viaggi delle famiglie. Per i bambini che magari per la prima volta fanno un viaggio all'estero, che documento bisogna richiedere? Perché qui qualche volta i genitori sono un po' non bene orientati in questo ambito. Sì, è vero. Allora, due soluzioni. C'è la possibilità di chiedere, io ritengo sia la migliore, però il passaporto individuale per minori, che è un passaporto valido 3 anni per i bambini da 0 a 3 anni e 5 anni nell'altra fascia di età, poi dai 18 anni in su è un passaporto normale come tutto quello che abbiamo tutti noi, valido 10 anni. Invece per quanto riguarda coloro che viaggiano in determinati paesi, che sono firmatari di un accordo di Parigi, in questi casi si può richiedere un lascia passare, che è un certificato di nascita con cittadinanza e fotografia, dove il minore è autorizzato a viaggiare nei paesi indicati appunto nell'accordo. Benissimo. Tengo a precisare che questo è un documento che ha una validità limitata ad 1 anno, vale per minori fino a 15 anni e soprattutto che molti stati non ne riconoscono la validità, però ha un costo irrisorio perché naturalmente non c'è nulla da pagare se non i diritti di servizio segreteria per il rilascio di questo certificato. Quindi magari prima di partire è bene informarsi bene su ciò che richiede la località di destinazione. Per tutte queste informazioni ovviamente si può frequentare il sito della Polizia di Stato. Dottoressa D'Arienzo, sul biometrico abbiamo detto tutto? Abbiamo qualche ultima informazione ai nostri ascoltatori? Voglio dare una novità che vale soltanto per tutti coloro che sono a Milano, a Trento, a Verona e a Savona. Benissimo. Perché tra due settimane parte l'agenda elettronica del passaporto, la possibilità di effettuare la prenotazione, la domanda online direttamente dal sito della Polizia di Stato, prenotarsi e poi andare su appuntamento senza fare file e niente, per il rilevo dell'impronta e il rilascio del passaporto. Tutta la digitalizzazione della pubblica amministrazione in sostanza va avanti anche attraverso queste vie. Dottoressa D'Arienzo, la ringrazio, buona giornata e buon lavoro e buone vacanze. Buon lavoro, grazie. Vai a fare il passaporto, Alessandro, buona giornata. Va bene. Quello biometrico con le impronte. Ok. Allora, oggi a Salvadanaio gli italiani, un tema di risparmio, fanno il piano di obbligazioni secondo i rilievi della Consob e noi cercheremo di capire perché piacciono tanto questi strumenti di investimento alle famiglie. Ciao. Benissimo, ciao. Noi parliamo di università perché c'è un'università un po' in subbuglio per la riforma Gelmini, ma soprattutto il rettore della Sapienza un paio di giorni fa ha detto: all'università ci sono anche una massa di fannulloni, di ricercatori, circa il 9% per esempio alla Sapienza, che non fanno nulla, e ora li cacceremo perché sono un danno economico. Secondo voi ce la farà? 8:33 minuti, eccoci qua in diretta, parliamo di università nel nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? Allora, c'è il mondo dell'università in alcuni casi un po' in subbuglio contro la riforma Gelmini, qualcuno protesta, qualcuno occupa, qualcuno alla Sapienza di Roma farà gli esami in strada e di notte perché dice: vedete come siamo ridotti. Vabbè, c'è anche questo. In ogni caso, che invece ti ha fatto il rettore della Sapienza, Luigi Frati, che saluto, buongiorno rettore. Buongiorno a voi tutti, grazie. Che ha fatto? Ha fatto una bella sparata a dire: alla Sapienza c'è un bel gruppetto, che adesso ci dirà quanti sono, di ricercatori, di chi fa ricerca, che poi vuol dire un po' tutto. Ma ricercatori vuol dire professori ordinari associati ai ricercatori, certo. Non ricercatori come categoria, che non c'entra nulla. Esatto, che dice che non fanno un bel niente. Quanti sono? Ma senta, intanto spieghiamo ai ricercatori la base di questa affermazione, perché potrebbe essere che un rettore impazzito ce l'ha con qualcuno. E l'anno scorso c'è una legge voluta dal ministro Gelmini che dice che il 7% dei fondi per il finanziamento all'università è dato in base ai risultati, ricerca e didattica. E la ricerca verrà valutata sugli anni 2004-2008, quindi su 5 anni, e in base ai prodotti della ricerca, cioè le pubblicazioni. Abbiamo, il Ministero ha avviato, e noi come Sapienza, recuperando tempo perduto, l'abbiamo fatto con grande rapidità, il censimento. Abbiamo chiesto a tutti i ricercatori: conferisci al sito informatico le tue pubblicazioni. Una volta, due volte, tre volte, fino a richiami individuali, ci sono circa 400 persone che in questo quinquennio non hanno prodotto nulla, ordinari, associati e ricercatori. 400 persone, tra l'altro. Quindi un po' il 9%, la media nazionale è il 10%, noi siamo al 9%, un po' meglio della media nazionale, comunque una percentuale significativa. Questo fatto porterà alla Sapienza una diminuzione dei fondi ministeriali, quindi un danno economico. Tra l'altro, rettore, le chiedo, perché il nostro sondaggio è questo: ce la farà a cacciarli? Questo vi chiediamo. Lei so che è un contradaiolo della selva ed è senese. È molto... Abbiamo vinto di straforo questa volta perché non eravamo i favoritissimi, è andata bene. Capito? È, diciamo, uno degli amori della mia vita, poi chi nasce su una contrada senese ci nasce a vita. Ed è una delle grandi emozioni che mi dava la vittoria di questo tipo. Allora, il problema è questo: se si vuole salvare l'università italiana, bisogna dare al grande pubblico la sensazione che l'università è produttiva per il paese, quindi fa buona ricerca e buona didattica. Allora, è una battaglia essenziale, perché io credo i tagli che in questi 10 anni ci sono stati per l'università e per la ricerca, che sono deleteri per il paese. Il paese in questo momento assoluto difficile può fare sacrifici se si vede che all'interno dell'università c'è meritocrazia vera. Lei sa che c'è ogni tanto le polemiche, la parentola, in realtà l'unico problema serio è: noi stiamo premiando i migliori, sì o no? Consentiamo a chi va all'estero di rientrare e a chi sta in Italia di non emigrare? in una, questa battaglia di globalizzazione sulla innalzamento tecnologico. Insomma, quindi chi produce bene, chi non produce, chi non produce. A casa, però, a casa. Quindi farò a casa. Una contestazione formale dicendo perché non hai prodotto. Se per esempio uno dice perché sto facendo il trattato di italiano di diritto civile che richiede 10 anni di studi, per carità, nessuno gli fa niente. Ma se non sta facendo quello, non ha pubblicato nulla, sta allo studio professionale di avvocato, commercialista, medico, ingegnere, architetto, quant'altro, o semplicemente non fa nulla, chiaramente nulla a che fare con l'università. Allora, Rettore, la stanno ascoltando, le voglio salutare il professor Giacomo Vaciago. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. È decano della Facoltà di Economia alla Cattolica di Milano. La sta ascoltando anche Guido Mula, che saluto, ricercatore di fisica all'Università di Cagliari. Buongiorno, Mula. Buongiorno. Fa parte della rete 29 aprile, questa rete nata il 29 aprile 2010 a Milano di ricercatori che contesta anche questa riforma Gelmini. Allora, professor Vaciago, prima di venire da lei, però vorrei, Frati, scusi, si è sempre detto, sì, l'università è il regno dei baroni. Adesso lei mi dice che invece dei baroni il problema sono chi non fa nulla. Il problema è che non fa nulla, cioè se lei va in qualsiasi università del mondo, che sia negli Stati Uniti, in Europa o in Italia, dire chi è bravo, almeno in certi settori, è sufficientemente semplice. Ci sono le banche dati internazionali dei lavori, se uno ha accumulato 200 punti di impact factor è migliore di uno di 20, se uno ne ha 0, 0, 0 e 0, non c'è da discutere su questo. Allora non si riesce a capire per quale motivo chi non fa nulla debba essere uguale a chi invece ha lavorato e si è impegnato. Oh, sentiamo, professor Vaciago, per lei cos'è musica per le sue orecchie? Qualcuno ci scrive, chi è? È un brunetta che si è insediato nell'università, il rettore Frati, no? No, calma, il rettore Frati, il magnifico rettore, ha perfettamente ragione, i fannulloni vanno cacciati, non solo dall'università, spero anche dal governo, dalla sanità, eccetera. Il problema però, come al solito, è un altro. La Gelmini fa una riforma sacrosanta che evita il peggio. Ma il problema della scuola italiana, già a cominciare dai licei ovviamente, è: vogliamo tornare a un sistema che al suo interno ha anche, e ben separato dal resto, la qualità come è nel mondo anglosassone, o vogliamo migliorare molto tutto il sistema come è il modello finlandese, per intenderci? Il secondo è un modello ancora servizio pubblico e si perseguono i cattivi. Il primo è un modello largamente privatistico, dove le università sono tra loro in competizione e ciascuno si dà una missione nella vita, perché gli Stati Uniti ha le migliori e le peggiori scuole del mondo, ma le tiene molto distinte. Ci sono anche là quelli che non scrivono nulla, ma fanno didattica decente, e chi si iscrive in quella scuola, gli studenti, sanno che hanno dei dignitosi insegnanti. E così via. Allora, noi dovremmo decidere di nuovo: o torniamo al modello che avevamo, i licei classici producono per le grandi università. Ricordo quando l'esame di maturità era presieduto da un professore universitario e solo dal liceo classico si andava all'università. Quello era il modello di un secolo fa, la riforma di allora. Poi abbiamo fatto viceversa il contrario: dopo il 68 tutti vanno all'università e fanno quello che vogliono. Abbiamo abbassato i controlli, abbiamo portato l'università a casa dei cittadini. Dico a un'amica: lo sai che il 94% degli studenti universitari è a cena dalla mamma la sera, e sì, lei, Giacomo, anche a pranzo. Beh, allora, la Gelmini è utile, e il rettore fa bene a dire chi becco che non ha fatto niente va cacciato. Però dobbiamo decidere cosa vogliamo fare da grandi: tornare al modello della nostra vecchia riforma, di quella degli anni 20? Vogliamo imitare gli Stati Uniti? Io sono preoccupatissimo quando sento dire che faremo come negli Stati Uniti. Poche università di eccellenza per tutto il mondo. All'MIT la maggioranza degli studenti PhD non sono americani, sono i migliori del mondo. Vabbè, è quello che vogliamo, ma allora c'è da lavorare 20 anni, trovare 3 posti dove concentrare i migliori accademici italiani e i migliori studenti. Insomma, vabbè, ma il concetto di meritocrazia c'è sempre sullo sfondo. Però io, prima di andare da Guido Mula, vorrei capire anche dal nostro rettore Frati perché a giurisprudenza la percentuale della sapienza, credo, di fannulloni, uso le sue parole, molto più alta. Un termine che non mi piace, no, però diciamo di non produttivi, ma lì c'è anche un problema locale, perché non avendo fatto una scelta supposta elitaria, va a sapere se è vero, di non avere professori associati, probabilmente lo stimolo per un ricercatore è stato molto più basso, quindi vi sono anche colpe strutturali. Cioè, quant'è la percentuale lì? Quant'è la percentuale di chi non produce nulla in termini di ricerca? A giurisprudenza sono il 30%, sono il 30%, pochissimi ordinari e la maggior parte ricercatori, però... proprio andando anche al ragionamento del professor Baciago, fra l'altro mi permetta di dire, io sono stato studente di suo fratello, professore di fisica alla Cattolica, e che ricordo con una straordinaria nostalgia, ma questo è una marcosa che c'entra nulla, perché era fratello, tornato all'Inghilterra allora. Allora no, voglio dire, il problema vero è che non avendo professori associati, quindi non avendo stimoli per progredire in carriera, probabilmente qualcuno si è dedicato agli affari privati, allo studio professionale di questo tipo. Uno dei grandi problemi che l'università deve sciogliere è il rapporto fra attività esterna ed università. Voglio dire, io posso avere interesse ad avere la conferenza del grande professionista, avvocato, medico, roba, senza che per questo debba essere professore. Lo pago, fa una conferenza, gli do 500 euro, ma non può fare il professore, mentre oggi è strutturato, mi costa 150.000 euro l'anno e lo vedo una volta nella vita. Allora, Guido Mula, qui abbiamo messo un po' di carne al fuoco. La questione è che la rete 29 aprile si è un po' adombrata. Qualcuno di altre reti di ricercatori ha detto il rettore ci chieda scusa, oppure ha spostato il problema è altro, invece lui se l'è presa con chi non fa ricerca. Cosa ne dice lei? È una crociata sbagliata? È una battaglia giusta quella di Frati? Il problema è che uno ovviamente è d'accordo con il principio che chi non fa nulla vada in qualche maniera sanzionato, e su questo penso che veramente non ci sia niente da dire. Il problema è che concentrare adesso tutta l'attenzione su quel 10% vuol dire dimenticarsi nel contesto attuale del fatto che c'è il 90% che lavora, primo punto. Il secondo è che si continua a ragionare in termini di l'università è piena di gente che non fa, senza guardare il fatto che nel contesto generale il Ministero, per esempio, continua a dare fondi in maniera completamente irregolare, non prevedibile, concorsi sono fatti in maniera casuale, dal punto di vista della tempistica, non c'è da parte del Ministero, che è la nostra, diciamo così, controparte in qualche maniera, una politica ragionevole. Allora, parlare di meritocrazia, parlare di valutazione, che è la cosa che i ricercatori vogliono, va fatto inserendo il discorso non nel dire quel 10% lo caccio, ma va fatto dicendo vogliamo che quel 10% si riesca a riportarlo a funzionare e vogliamo che il discorso... Cioè dice modificare il sistema per cui non può esserci un 10%, neanche uno 0,1% di persone che non fanno nulla, non producono ricerca e stanno lì. Certo, ma quando io mi ritrovo con un ministero che prende per esempio anche 7 anni per valutare un progetto di ricerca triennale, a quel punto è difficile fare un po' la parte delle cose e capire da che parte stanno tutte le responsabilità. E diventa chiaro che le responsabilità sono bipartite, quindi chi dal lato vuole additarci come un sistema fatto di gente inefficace... la posso tradurre così: secondo lei spesso è anche il sistema che non vi permette a quel 10% di essere produttivi, non è tanto quelli lì che sono dei fannulloni nel loro DNA? Posso tradurla così? No, questa è forse un'esagerazione. Io non so quel 10% perché non lo fa, però voglio dire, concentrarsi solo su quel 10% senza rendersi conto che la fuga dei cervelli vuol dire che la formazione italiana funziona, perché la gente va fuori e viene apprezzata. In Francia si parla di tsunami italiano. Sì. Non credo, però da questo voglio ripartire dopo il traffico, non credo che voglia dire l'allarme lanciato da Frati concentrarsi su quel 10%, adesso alla caccia di quel 10%. Forse è, se risolviamo il problema di quelle sacche che non fanno nulla dal punto di vista della ricerca, forse si comincia a fare un passo verso il premiare poi tutti invece coloro che fanno onestamente il loro lavoro. Ma siccome ho visto che sta arrivando Oscar Giannino, adesso ne parlo un po' più piano, perché Oscar Giannino oggi ha firmato un editoriale su questo tema sul Messaggero. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mi vita. Bianco o nero? Ecco, non ha funzionato parlare a bassa voce perché Oscar Giannino ci ha sentito. Eccolo qua, Oscar, gli rubiamo 10 minuti perché poi lui va in onda alle 9. Oscar Giannino, ciao Oscar. Eccoci qua. No, siccome lui ha firmato questo editoriale che oggi ho letto in rassegna stampa sul Messaggero, allora siamo qui col rettore Luigi Fratti della Sapienza e il professor Giacomo Vacciano. Dire qualcosa prima che Oscar Giannino dica, sì, un secondo solo. Sì, dica, dica. Contemporaneamente alla, diciamo, crociata che dice nel suo editoriale di fondo Oscar Giannino contro, sì, chi non produce, io però ho anche messo dei posti di ricercatore che saranno dati per i dipartimenti più produttivi. Cioè, da un lato dico taglio, dall'altro metto risorse dove c'è merito. Però scusi, e poi do la parola anche a Oscar. Lei, sì, rettore, oggi in una intervista che le ha fatto Goffredo Buccini, alla domanda che molti ricercatori e all'osservazione fanno, e cioè, però voi baroni sfruttate, voi baroni nel senso, voi professori sfruttate i ricercatori e fate fare lezioni a loro e non a voi. Lei ha detto la domanda è cretina. Com'è cretina? No, è la domanda, io l'ho definita domanda cretina perché non perché? È vero. Voglio dire, è una non conoscenza dei fatti, perché il ricercatore proprio con la R maiuscola fa didattica solo se fa domanda. Il ricercatore per legge deve fare solo ricerca. Allora, se non ha fatto ricerca non ho capito che fa. Siccome a giurisprudenza a Roma non hanno dato nessun corso ai ricercatori, a Tipia fra l'altro, è chiaro che non avendo fatto didattica non mi si può dire che hanno fatto un giorno al mese gli esami, troppo poco per pagare uno stipendio. Tenga presente che il 10% a Roma sono 40 milioni di euro di stipendi, sì, sì, con 40 milioni di euro riversati sulla ricerca, ma farei concorrenza all'Università della California. Allora, Oscar, qui il 74% dei nostri ascoltatori che sta votando a sondaggio dice il rettore Frati non ce la farà. La domanda è: riuscirà a cacciarli? Ecco, insomma, è questa crociata, noi l'abbiamo definita così. Perché secondo te la gente è sfiduciata? Perché non ce la farà? Perché in Italia non si caccia nessuno? Ma no, ma perché la gente, se parliamo dell'università, vede da quasi 40 anni come l'andazzo è quello che chi ci mette un piede di solito il politico alla fine, non sto parlando dei rettori ma sto parlando dei politici, quelli che fanno che rendono per così dire i diritti una volta per sempre incontestabili, hanno sempre preferito a chi aveva messo piede all'università dargli la possibilità di restarci per tutta la vita. Quindi siccome questa riforma avrà tanti difetti, li ha senza dubbio, in Parlamento io sono il primo che critica perché la stanno ammorbidendo, detto tutto questo la riforma interviene sul ruolo dei ricercatori dicendo no, voi che state lì da molti anni non ci rimarrete per la vita, vi diamo ancora due contratti triennali, dopodiché o passate ad associare oppure, cari signori, la porta si chiude, perché il bilancio complessivo di questa figura dei ricercatori è quello che dice il rettore Frati, solo che bisogna avere il fegato di dirlo. Credo che la gente è comprensibile che dica bene, c'è qualcuno che lo dice, adesso che riusciate davvero a farlo, beh, fateci vedere, perché lo scetticismo ha delle legittime ragioni per prevalere. Io, professor Vacciago, lei su questo crede che si arriverà a una possibilità di dire veramente chi non produce dal punto di vista della ricerca fuori dall'università, cioè se lo prefigura come scenario in Italia? Beh, lo spero. Ma se cioè, sperarlo è una cosa. L'ho ripetuto prima, la riforma Gelmini riduce i guasti, non basta per produrre il meglio, lì ci vuole un'altra riforma. Questa non è l'ultima delle nostre riforme universitarie, ma almeno fa un passo indietro rispetto al 68 che era all'università ciascuno fa quello che vuole. Attenzione, il dramma del paese non è che abbiamo università buone e università scadenti, magari, questa è l'America, noi abbiamo università casuali. Bravo, bravo. Perché non è vietato essere bravi e io ho ottimi colleghi all'università italiana, ogni tanto scopro un bravo collega che insegna in un'università italiana sconosciuta, perché questo è l'altro miracolo dell'Italia, siamo riusciti a passare da 90 a 300 sedi universitarie senza che nessuno l'abbia deciso. E se vai al ministero e chiedi la mappa delle sedi universitarie italiane ti rispondono chiedilo ai rettorati perché quello che hanno fatto negli ultimi 20 anni loro noi non lo sappiamo. E allora, questo è un paese fantastico, peccato che poi la qualità, essendo casuale, La Sapienza di Roma ha ottimi professori, ci mancherebbe altro. Peccato che gli può anche avere scadenti e non è il rettore il garante del livello dove si entra. Mm. E a questo proposito, rettore Frati, visto che lei è combattivo, pugnaccio, un contradaiolo della selva, poi avete vinto il Palio l'ultimo e quindi sarà anche contento. Oh, questa a sorpresa, diciamo ai telespettatori, a sorpresa. Ci sono anche che vuol dire? Vale di più quindi se è vinto a sorpresa? Sì, c'è più soddisfazione. No, vuol dire che sono scettici, quel 74% li smentirò. Li smentirà. Senta, professore, però qua anche molti messaggi ci dicono, ma come? State parlando con Frati che da molti è identificato come uno dei baroni dell'università italiana, dei parenti anche che insegnano. Bravi, probabilmente bravi. Probabilmente bravi, nessuno lo mette in discussione. Dire. Nella vita oggi è possibile dire se uno è bravo o no. Io questa storia di identificare Tizio Caio in base a chi è figlio, chi è nipote, chi è cugino, chi è amante, chi è questo. La cosa più importante è sapere se uno è, quando lei si va a operare, vuol sapere se il chirurgo sa operare o no, non domanda come è arrivato là. Quindi il problema è vero. Io ho un esempio però per il nostro 74% di radioascoltatori. La Regione Lazio mi ha scritto di calare i primari al Policlinico da 210 a 140. Che cosa ho fatto? Li ho fatti decadere tutti, me compreso. Abbiamo approvato in Consiglio di Facoltà un criterio qualitativo di screening per questi e poi l'abbiamo applicato. 140, quindi 70, un terzo hanno perso il primariato. E come l'abbiamo fatto? Dando 30 punti alla ricerca scientifica in base all'impact factor, che è un sistema da noi nell'area biomedica assolutamente oggettivo. 10 punti alla didattica, che si è impegnato come gli studenti l'hanno giudicato, e 60 punti all'assistenza, 20 al volume, 20 quante persone da fuori regione vengono da te e 20 all'indice di complessità, si chiama case mix, una graduatoria, un terzo ha perso il primariato. Cioè, per capire, vi sono esempi nei quali la meritocrazia è diventata oggettiva reale fino a levare il primariato a un terzo delle persone. Ci vorrà anche l'ospedale in Italia. E tra l'altro io, ma poi guardi, magari il 74% è scettico mica perché non è d'accordo sulla battaglia, magari dice non ce la fa perché sa in Italia penso di farcela. E lei d'altronde è della selva e avete vinto a sorpresa. Allora io nel ringraziare tutti, cioè qua Oscar, io però tu hai 20 secondi perché sennò ti rubi, è bellissima questa cosa, ti rubi il tempo per la trasmissione dopo. Leggete Oscar Giannino sul Messaggero, credo anche sul Mattino, i diritti acquisiti non sono un merito, la ricerca universitaria, ti ho ingabbiato per no questo, non mi hai ingabbiato io, lasciatemi solo dire che questi professori che si inventano le torce notturne per gli esami, le torce notturne è una carnevalata indegna. Questa è la mia carnevalata indegna. Vabbè, sì, lì è una cosa un po' folcloristica. Ho detto anch'io, lo studente ha diritto a fare l'esame in grande tranquillità, in modo normale. Vabbè. E a farsi spellare dal professore, ma in modo normale. Stanghiamoli di giorno. Con le torce, magari usano le torce per quello. Grazie a tutti, devo finire. Ringrazio anche Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. E quindi, che dire, do la linea, indovinate a chi? A Oscar Giannino, che tra poco parla. Bianco o nero e tra di 24.it. A domani.